Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando qua, comando qua. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma. Si è sentito anche un vaffanculo, mi pare, eh. Così si è messo agli atti, eh. Uno che gli suggerisce vaffanculo. Io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischi e tanto ti dirò. Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crocciuolo di pinze, viva il crocciuolo di panze. Quanti problemi risolti, ma un cuore grande così. Ma questa riforma passa perché c'è questa, da parte di molti colleghi, la cadrega. Va bene, minacciare di far cadere il governo e di non votarlo, ma Renzi si ricorda sempre e ricorda i senatori che c'è questa. Italia sì, Italia no, la cadrega. La cadrega, amici italiani, se non siete di Milano, se non siete del nord, ma se ricordate la celebre scenetta di Aldo Giovanni e Giacomo, quella della cadrega. Cos'è la cadrega? Non si rifiuta nessuno. Ma signor Fumagalli, prego, si accomoda. Bella cadreghina, eh? Prego, prego. La cadrega, la sedia, la sedia. Ma se c'è la partita, c'è la cadrega, la sedia, e quindi oggi inizia la battaglia per la riforma del Senato in aula. La battaglia finale. Credo che gli italiani opteranno comunque oggi per andare a lavorare o fare le loro faccende, invece che seguire la battaglia finale, che non interessa a nessuno, forse neanche a loro, forse a quelli che perdono la cadrega. Forse interessa solo capire una cosa, gli italiani vogliono capire una cosa: per questa riforma si rischia di andare a votare perché Renzi non avrà i voti e quindi andrà sotto? La risposta è no. E basta, quindi andiamo avanti. Pensate, non interessa una vicenda del genere, non interessa neppure a un Mario Adinolfi, neppure a lui. Mario dà un colpo di straccio al banco del neppure a lui. Ecco la citazione di Ligabue. Ricordiamo che ci sarà un grande concerto in Liga tra due giorni al Campo Volo. Il Campo Volo, 250.000 persone, sarà una cosa molto. Ci sei anche tu? Ci sono andato una volta, ma adesso non abbiamo più l'età per fare queste cavolate. Ah, Esatto. Poi lì ci sono. Poi c'è gente da occuparmi della riforma elettorale, del gender, di un sacco di del gender, insomma, del quindi, gender. Guarda, mi interessa quasi. 24 hanno fatto quasi più il gender della riforma del Senato. Mi interessa. Vedi. Il Senato, va bene Mario, ma ti interessa? Perché non segui la politica, che è sempre appassionante. No, la sono pagato, è incredibile, sono obbligato. No, la devi seguire per passione, non per dovere. No, adesso è troppo decisivo se c'è o no un ramo del Parlamento, sì, quali sono, sì, gli schieramenti in campo, sì, che infatti, l'opinione di Cotor, sì, Cotor, sì, Mineo, sì, sì. No, infatti tra l'altro pare che l'ultima di Renzi sia questa, ma quasi quasi a questo punto tanto vale abolirlo il Senato. Ma come? Ma dopo tutto sto casino, ma non potevi farlo prima? Ma porcaccia di quella miseria. Vabbè Marione, fammi salutare, un graditissimo ritorno, torna con il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Interesse del Senato da 0 a 10? Tuo? Per la gente, zero. Per me, io sono pagato come te, quindi ragazzi, un pochettino mi tocca occuparmi. Tutti che siamo obbligati perché pagati, occuparsi. Va bene, allora apriamo il Parlamento, dai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Eccola qua, il ministro Boschi che va a prendere un caffè, che oggi dice al Corriere: non ho dubbi, sono serena, abbiamo i numeri. E tra l'altro dice anche: ma lei vuol fare il Premier? Ho sogni più belli, vi rassicuro, che fare il Premier. Quali saranno i sogni della Boschi, Massimo De Manzoni? Questa sarebbe una bella inchiesta, ma non lo scopriremo. Massimo, ci sono questi numeri? Così togliamo il campo da... Ma sì, sì, ecco, li troverà di sicuro, non, nessuno vuole andare a casa, la Cadrega. Nessuno è pronto a votare neanche, perché tranne forse 5 Stelle, gli altri partiti mi sono abbastanza messi male. E quindi alla fine si troveranno i voti, si andrà avanti, si farà una riforma che è un po' un pateracchio, perché come dicevi tu e come... incredibilmente ha detto Renzi, forse era meglio abolirlo del tutto. Certo, sì, che era meglio abolirlo del tutto. Adesso, anzi, adesso lo iniziale dicono. Era proprio quello. Adesso lo dicono che era meglio abolirlo, no? Se ne sono accorti un po'. Comunque ci saranno i voti, anche Varia Di Nolfi, uno che in Parlamento c'è anche stato, e quindi le dinamiche le conosce. Renzi ha convocato anche Flavio Tosi, che controlla 3 senatori, pensa Di Nolfi. Deve... Ma dai, ma non c'è neanche discussione, questa è la solita storia. La minoranza PD farà il solito ruggito del gattino, no? Poi alla fine neanche serviranno i 3 voti di Tosi, insomma, perché i numeri di quelli che seguiranno veramente la linea della minoranza PD alle estreme conseguenze saranno non quelli che vengono millantati, quindi insomma dal punto di vista numerico non c'è storia. In più c'è Forza Italia, che secondo me costringerà al bagno parecchi dei senatori, che poi, insomma, perché i numeri anche lì sono abbastanza ballerini, e l'opposizione di Forza Italia è abbastanza, diciamo, di facciata ma non sostanziale. Ma sì, sì. Quindi di che stiamo parlando? Quindi questo di che battaglia parliamo? È interessante parlare della riforma del Senato, ecco, magari dire se era meglio abolirlo o no, questo può essere un dibattito interessante. Ecco, tu per esempio, però... tu l'avresti abolito? Ma certo, cioè, la ratio di questa riforma è l'abolizione del Senato, di fatto c'è l'abolizione del Senato, l'assemblea che non conta niente, vota la fiducia su tutti gli argomenti decisivi, non c'è più il bicameralismo, quindi perfetto, quindi le leggi si fanno alla Camera, sostanzialmente diventa un'assemblea vuota, e quindi potevano tranquillamente procedere con potevano abolirlo, un potevano tratto abolirlo di penna. Ecco, questo potrebbe essere una cosa più interessante. Vabbè, però, e capire perché invece non è stata fatta l'abolizione, che anche è la Cadrega, la finta Cadrega, sono 100 cadreghe, sono 100 cadreghe. Oh, ma non ho detto questa cosa, che qua abbiamo praticamente Mario Di Nolfi e Massimo De Manzoni, cioè c'è stato lo scontro, il testa coda la scorsa partita di campionato, grande tifoso del Chievo Massimo De Manzoni, vi hanno rubato 2 punti, questa la puoi dire a Mario Di Nolfi quello che vuoi, Dichelo, ormai lo sanno anche loro che rubano, lo sanno anche loro che rubano. Questo c'è stato negato un solare rigore su Pogba, non scherziamo, siete una vergogna. Dobbiamo fare i complimenti anche invece alla Juve per la Champions League, dobbiamo fare i complimenti alla Roma, che Florenzi ha fatto il gol del secolo da 54,0, e anche Alessandro Milan, che si è guardato chi l'ha visto, insomma, quindi è abbastanza complimenti. Ho guardato l'Italia di basket, porti bene come sempre. No, cosa dici? Cosa dici? Sono andato a dormire alla fine del primo tempo, sai che mi sveglio alle 5 e alla fine del primo tempo eravamo pari più o meno. E quindi vabbè. Oh, ma insomma, allora cominciamo lo chiedo a Massimo De Manzoni, perché sai, Mario Di Nolfi è molto tutto arrabbiato, caro Massimo, perché ieri abbiamo ospitato Mailog con Gianluca Nicoletti, ho ospitato il ministro dell'istruzione Stefano Giannini. E ha detto, mamma mia, allora di Nolfi è da ieri che non vede l'ora. Allora, intanto, De Manzoni, tu hai capito che cos'è questa teoria gender? Cosa sarebbe? Sì, l'ho capito abbastanza. Cioè, è questo tentativo di introdurre nel linguaggio, nella cultura, nella testa della gente una sorta di abolizione delle distinzioni di genere. Di genere, quindi non c'è maschio. È quella cosa che porta a puttanate del tipo genitore 1, genitore 2. Su quello sono d'accordo anch'io. Sono puttanate, appunto. Genitore. Però, ma c'è questo tentativo in atto? Perché ci sono delle denunce? Cioè, ci sarebbe In Italia molto recentemente abbiamo avuto una sentenza della Cassazione che dice che basta la sensazione soggettiva di sentirsi uomo piuttosto che donna, non occorre neanche fare l'operazione per cambiare. Però io ci ho dedicato una puntata, guarda, che soggettiva che puoi avere è quella di essere un golden retriever e probabilmente attiva un'anagrafe mentale. No, però io in realtà l'ho invitata in onda quella persona, in realtà è affetta da una malattia, no? Si chiama disforia di genere. Cioè proprio una malattia considerata catalogata come malattia, cioè chi non si riconosce nel proprio sesso dal punto di vista psicologico, psichiatrico. Tu sai che ormai le malattie si stanno moltiplicando, anche perché si moltiplicano le medicine, punto di vista non è che mi rassicuri più di tanto il fatto che abbia un bollino medico, perché un medico che ti certifica una malattia del genere probabilmente si trova, cioè è l'idea in sé. Detto questo, io non so se nella scuola italiana in questo momento ci sia un piano strategico. Sentiamolo. C'è qualcosa che non va. Beh, io pensavo di avere un'opinione più sfumata prima di passare a Maria Dinolfi, ma sentiamola il ministro Giannini, così poi a Dinolfi dirà tutto quello che vuole il ministro. Chi ha parlato e continua a parlare di teoria gender in relazione al progetto educativo del governo Renzi sulla scuola fa una truffa, compie una truffa culturale. Allora, io lo voglio dire con chiarezza, ci tuteleremo con gli strumenti legali. Ah! E questa è la cosa. Mario! Questa è una cosa gravissima. Ragazzi, ma come si fa a pensare che un ministro, dall'alto del suo potere, va in una trasmissione e dice vi denuncerò, perché questo dice... Se ci accusate di propalare la teoria gender. 10 minuti dopo la trasmissione, una circolare, negando sta cosa della teoria gender. La teoria gender esiste o non esiste? Perché lei scrive presunta, lei scrive cosiddetta. La circolare dicendo che invece questa cosa se la nega e denuncia chi? Denuncia chi? Papa Francesco che parla di colonizzazione ideologica, che dice sbaglio della mente umana, che dice che questa roba fa l'operazione di formazione e di lavaggio del cervello che è stato fatta alla gioventù hitleriana. Queste sono parole di Papa Francesco. Sì, ma chi starebbe nel mondo della scuola facendo questo? Primo giorno di scuola ha detto ci sta questo tizio di espansione di queste teorie all'interno della scuola. Ma da parte di chi? Ma da parte di associazioni che fanno corsi mascherati da corsi antibullismo, antibullismo omofobico, per l'educazione e il rispetto del maschile e del femminile, quando in realtà questi corsi sperimentati, veri, reali, cosa questi libri sono esaltazioni dell'omogenitorialità, spiegare ai bambini che nascono da due maschi o da due femmine, cose che non sono vere, sono ideologia. Ideologia. E le persone che hanno i figli nelle scuole lo sanno che c'è questo rischio, perché molti hanno visto i libri di testo che raccontano queste cose, non sognati da qualcuno. Allora il ministro, prima di dare insomma una valutazione, è stata anche un po' dittatoria nella nostra trasmissione, dicendo che la Chiesa italiana c'ha un segmento che sostanzialmente è fatto di pazzi, quando poi questi sono il Papa e il Presidente dei Vescovi italiani, non proprio gli ultimi arrivati, insomma, e minacciare soprattutto l'arma della denuncia è una cosa vergognosa, cosa voglio fare? Volete mandarci in galera? Io mi sono autodenunciato, io sono uno di quelli che teme che l'ideologia gender si espanda nelle scuole. Quindi... non credo di essere solito. No, ma lei dice denuncio. Che c'era scritto sulla petizione stop al gender delle scuole, quella è la petizione che avevamo dietro. C'era un milione di Ma lei quello davanti. Che dice il ministro, poi io non devo difendere, dice il ministro, dice denunciamo chi accusa che questo governo voglia diffondere la cosiddetta ideologia. Questo governo nel DDL, nella legge buona scuola, ha infilato surrettiziamente, non si capisce cosa, a un certo punto... un emendamentino che parlava di questa roba. Capito Massimo De Manzoli? Perché? come agguerrito il nostro marito. Non è agguerrito, è la gente Secondo me la gente nei bar non parla della riforma del Senato, ma neanche della teoria gender come primo problema. Un po' più della teoria di gender. Questo non c'è dubbio. Il Senato è all'ultimo posto. Questo forse. Però si può dire che un ministro dell'istruzione in particolare, ma un ministro in generale che minaccia denunce per una manifestazione di pensiero, fondamentalmente una manifestazione di critica è una cosa che questo è un po' troppo forse, si può sentire, cioè, è una cosa fuori dalla grazia di Dio, cioè ha detto una cosa inaudita. Io non riesco a concepire un ministro che dica: se qualcuno mi critica la mia riforma sotto questo aspetto, io lo denuncio. Ma stiamo scherzando. Allora, questa è una cosa che permettimi anche a Gianluca Nicoletti, magari un pochino di contraddittorio, o magari lui stesso poteva sottolineare. Vabbè, adesso allora, dai, però anche tu c'è un ministro, non è che deve avere uno che dice A, l'altro dice B, si fa le domande, quello è il contraddittorio. Ma allora lì del giornalista deve dire: ministro, ma lei sta minacciando le famiglie italiane di denuncia se criticano la sua riforma? Mi sembrava abbastanza istintiva. Dopo con Gianluca ne parliamo. Andiamo al traffico, che poi rientriamo. Siamo con Mario Dinolfi, Massimo De Manzoli. Vi devo far sentire poi l'assessore di Roma Esposito, in dramma dell'assessore, che ora dice: mi insultano e mi dicono Juve merda quando mi incontrano. Insomma, Esposito, anche te però primo premio va al traffico, con il pelo lungo, con le corna belle. Buongiorno Milan, io sono convinto che oltre a tutti i problemi che ha questo nostro bellissimo paese, il problema della politica è che abbiamo dei politici di professione. Infatti non sono animati da un sano spirito di servizio per la comunità, ma solamente il fatto di avere un ottimo impiego statale e esageratamente pagato che gli permette di fare un po' quello che ne ha voglia. Io non sono arrabbiata. Buongiorno, rilassati di tutta Italia, svegliatevi. C'è Alessandro Milan che ci delizia con il suo programma. Dato che, come sembra, non c'è alternativa a Renzi, chiedo, caro Milan, è possibile adottare un politico tedesco o inglese? Mi dici qualcosa? Mi rassicuri? Ti prego. Signor Milan, stai ben attento. Quando salti la segreteria telefonica, tu non fai altro che una amputazione alla bellissima trasmissione. Hai capito, Milan? Non facendo un caristuso, perché sennò alla fine tu mi diminuisci di punteggio, capito? State accorti che ieri ho fatto saltare la segreteria telefonica. Hai visto Adinolfi come mi hanno amputazione? Ma che c'è? Che c'hai? Con chi ce l'hai? No, con chi ce l'hai te? Con chi ce l'hai? Perché? Pubblico di merda! Ecco, lo so, Massimo De Manzoli, cioè così tratta il mio pubblico Mario Dinolfi. Io lo invito nonostante ciò. Oh, Calderoli dice, a proposito di Senato, alla stampa, che adesso arriverà una sorpresina. Ha ritirato 500.000 emendamenti, ma ne presenterà pare 8 8 milioni. 8 milioni. Cosa ridi? Com'è questo? 8 milioni. Ne il paese degli altroni. Appunto, e tu ci devi spiegare che invece è importante la riforma del Senato. È importante, sì. È importante. Capito, De Manzoni? 8 paese. Milioni. Tu sai quanto peseranno in carta se li devono stampare? Più 8? Di me, diciamo. Più di Adinolfi, più di Adinolfi. Quindi tanto, ma non penso che li stampino, mi sembra che siano rifiutati. Lo so, sì, ma mandano in palla anche i PC con 8 milioni di emendamenti. Va bene, allora vi posso chiedere questa cosa? Allora, Mario Adinolfi ama tantissimo Napoli e i napoletani, in passato ha sempre mostrato questa stima e non ha mai avuto problemi. Massimo De Manzoni è di Verona, insomma, quindi anche lì le tifoserie Verona-Napoli si sono sempre amate, però tu sei del Chievo. Insomma, Massimo De Manzoni, questa storia di Rosy Bindi, la combinata grossa oppure no? A dire che a Napoli, insomma... la camorra è costitutiva della storia di Napoli. A me difendere Rosy Bindi penso che sia una cosa che mi è capitata solo questa volta nella vita, sì, però sì. Mi pare che abbia detto un'ovvietà. Non capisci le polemiche, quindi. No, veramente. Marione, stai attento, che a Napoli ti ascoltano, anche quello stato a corto. Ma mi vogliono bene, poi alla fine mi vogliono bene. Il tema è molto serio, cioè è perché alcune cose e alcune strutture sociali criminali possono svilupparsi in alcuni luoghi piuttosto che altri. Voi ve la immaginate, come dire, la struttura sociale della Camorra a Monaco di Baviera? È immaginabile, sì. Cioè, è anche se ormai c'è anche lì, come voi dire, lì ci possono essere condizioni di investimento di denari, ma il tessuto sociale che consente cosa? Questa è la cosa drammatica. Un consenso sociale di una parte della città alla struttura criminale. E quella è la cosa terrificante. Quando noi dobbiamo giudicare quel fenomeno, dobbiamo giudicare un fenomeno che ha strati di consenso sociale. E stai dicendo che lo dici tu che è nel DNA dei napoletani, non l'ha detto Rosy Bindi. Io sono un campano di famiglia, per cui conosco bene l'Adinolfi, è un cognome campano, sì. Quindi conosco bene quelle terre. In quel luogo c'è un pezzo di, come dire, intelligenza di questo paese che è stata eccezionale, di cultura giuridica, di finissima cultura accademica. Dopodiché ci sono strati e substrati, sì, di cultura sociale camorrista, anche dei non camorristi. Capito, Massimo De Manzoni, adesso lo difendi tu a Napoli. Ma non dico una cosa che non è verificabile, andando a guardare si vuole guardare la realtà. È la tua opinione, Massimo. Ma io ero stato più breve, ma insomma. Adinolfi ha espresso compiutamente il tuo pensiero. Allora, sentiamo questo assessore Esposito, sapete, dai, l'assessore di Roma, che però è campano di origine e juventino di Tifo. È di Torino comunque Esposito, eh? Vabbè, assessore di Roma, nel senso assessore, sì, di Roma, assessore del torinese, comune, del compano, sì, di cognome. Vabbè, torinese, emigrato da piccolo, ma chi ne so della vita di Esposito. Comunque gli hai dato del campano, di Torino. Ma mica è un'offesa, gli ho dato del campano ai genitori campani, e sarà andato lì a, non so, 5 anni con i genitori che andavano a lavorare a Torino. È juventino perché è di Torino. Ed è juventino. Sentilo, ma tu sei di Roma e sei juventino, quindi senti un po'. La Juve che non ha campanile. Senti qui, Esposito. A parte uno che in macchina mi ha insultato passando un semaforo, ma questo ci sta. Ma chi ha detto quello che l'ha insultata? Mi incuriosisce. Vabbè, Juve merda, naturalmente. E poi si vede che, conoscendo la mia storia, ha urlato Notav, ma insomma si mischiano le cose. Quindi, Notav, Juve merda, Notav. Perché Esposito è uno di quelli proprio più a favore della Tav. Però. La cosa grave di Esposito, da parte della solidarietà da ultra juventino gliela do pure, ma la cosa grave è che non sa sapeva il percorso del 64, che è l'autobus che va da Stazione Termini a San Pietro, ed è l'architrave del trasporto pubblico a Roma, questo ed è l'assessore ai trasporti. Questa è una cosa grave, e in Italia abbiamo discusso e continuiamo a discutere della fede calcistica di Esposito e non del fatto che abbia detto bellamente, rivendicandolo pure, che non sa che cos'è il 64, che è una cosa che nell'anno del 2000, quella è la cosa più grave. C'è un'altra ancora più grave. Massimo, la cosa più grave dell'assessore Esposito è che continua a fare il parlamentare Esposito, cioè fa il parlamentare part time e l'assessore part time in una città come Roma. Assessore al traffico di Roma, cioè dovrebbe avere una giornata di 24 ore, invece lui lo fa part time. Sì, e non è una questione, non è una questione di stipendi, è una questione proprio di, come dire, di sicurezza, diciamo così, di paracadute. Ma di concentrarsi su un lavoro, effettivamente. No, è proprio una questione di stipendi. Ah, è proprio ma non lo so se si possono, cumulare. Quantomeno è una questione di polizza sulla vita. Non li ha accumulati, ma l'assessore prende un quarto del parlamentare, quindi, non li ha accumulati, ha rinunciato allo stipendio d'assessore. Tra i due ovviamente anch'io avrei rinunciato a quello. Pane e volpe non servivano a colazione per questa decisione. Va bene, Mario Adinolfi e Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, grazie, alla prossima. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora ci siamo, amici miei debosciati di tutta Italia, vi voglio bene nel dirvi debosciatelli miei. Allora, che dire, siamo qui fino alle 9:30. Di che ci occuperemo oggi? Beh, ieri c'è stato un elenco di messaggi critici nei miei confronti perché io a mia volta ho criticato la decisione, la proposta di legge di voler chiudere i negozi la domenica, dicendo che mi sembra una roba da medioevo, da tornare indietro, uno sprazzo di antiglobalizzazione così. Ma subito mi hanno detto: ah, ma guarda che in Germania sono chiusi, in Francia sono chiusi la domenica, le festività. Poi le solite accuse, tu vuoi fare sfruttare i lavoratori, sì certo, il mio primo scopo quando mi sveglio al mattino è far sfruttare i lavoratori. Va bene, parleremo oggi, mi avete tanto incuriosito che avremo ospite il senatore della Lega Nunziante Consiglio che porta avanti questa battaglia insieme al nostro Alberto Forchielli da Hong Kong. Che ne penserà da Hong Kong Alberto Forchielli della chiusura dei negozi? Lui che dice, vi do in anticipo, bisognerebbe lavorare di più. Lavorare di più, questa è la ricetta, l'ultima volta ci ha detta così. Lavoriamo qualche weekend in più e vedrete che va meglio. Ecco, capite subito di che parliamo oggi. State con noi allora, intanto andiamo a leggere i giornali. I giornali di giovedì 17 settembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla Fed che decide sui tassi, salgono borse e petrolio. Oggi c'è la decisione della Banca Centrale Americana sul nodo della crescita globale che è sul tavolo della Yellen, vale a dire la presidente della Fed. Per il Corriere della Sera invece lo scontro, la battaglia politica sul Senato. Sul Senato non ci sono rischi, è la frase di Maria Elena Boschi, ministro che viene intervistata dal Corriere della Sera, il titolo di prima pagina. Per Repubblica niente intesa, oggi in aula sfida sul Senato. Il Fatto Quotidiano invece mette Matteo Renzi in prima pagina con il titolo «Il Parlamento sono io». Per la Stampa, riforme, Renzi sfida tutti gli oppositori, legge subito in aula. E poi l'immigrazione, Avvenire, lacrimogeni e idranti per fermare i profughi, è ciò che è successo in Ungheria. Il giornale invece fa questa proposta, noi prendiamo i cristiani. Questa è l'idea del giornale, cioè prendiamo i profughi ma cristiani. Il Messaggero, Giubileo, opere a rischio, caos. Mentre Libero titola sugli immigrati, per la verità la parola usata è un'altra: dentista gratis ai clandestini. Il presidente poi di Confindustria smentisce chi dice che il sistema economico ha bisogno di ondate di stranieri. Questo è il sottotitolo. Ma voglio partire da che cosa? Qualcosa che, beh, ieri era sul Corriere della Sera, era l'anticipazione di questo rapporto dell'Autority Anticorruzione di Raffaele Cantone sugli appalti a Roma, giunta Alemanno prima e Marino attuale, dicendo che ci sono tante cose che non vanno. Cantone l'abbiamo sentito anche a Radio 24, al microfono di Simone Spezia. Oggi Gabrielli, il prefetto Gabrielli, definito dal Corriere della Sera il tutor di Marino, sapete che ormai è quando si bolla giornalisticamente qualcosa, poi la si fa fatica ad abbandonarla. Comunque Franco Gabrielli dice: mi è piaciuta la relazione di Cantone, l'ho molto apprezzata, e soprattutto attacca Gabrielli quella che chiama una riserva di caccia, la riserva di caccia destinata alle cooperative e prevista dal Comune di Roma, cioè quel 5% in pratica di riserva di caccia di appalti che nasce anche da una buona intenzione, dice Gabrielli, ma diventa criminogena e produce il frazionamento degli appalti. È il tema del 5% alle cooperative. Al che Alfonso Sabella, assessore alla legalità di Roma, magistrato, PM antimafia per tanto tempo, risponde con un'intervista, intervistato da Alessandro Capponi sul Corriere della Sera. Intanto fa una premessa e dice: la fotografia scattata da Cantone purtroppo è reale. Ed effettivamente anche a Roma qualche proroga c'è stata come affidamenti alle cooperative. Del resto i problemi, dice l'assessore Sabella, arrivano a cavallo e vanno via a piedi con lentezza. Si tratta di contratti già stipulati. E poi, guardi, succede così: il 28 dicembre viene da me il dirigente e dice: il 31 dicembre scade il servizio per i minori disabili e per gli anziani. Come si fa a sospenderlo? E dunque va bene la proroga, ma poi si devono fare le gare. E così è adesso. Dico di più, con Marino c'è stata anche qualche soprasoglia, tra virgolette, sulle procedure negoziate, ma si tratta di pochi casi, errori tecnici. Insomma, dice Sabella, ora lentamente stiamo cambiando. E comunque Roma non è peggio di importanti ministeri, anche loro usano le proroghe, non con le coop, ma loro con le multinazionali. Quindi, in qualche modo, Sabella rimanda anche la palla al mittente e dice: anche i ministeri fanno così. Oh, cari ascoltatori, evidentemente dare dell'orango o paragonare all'orango il ministro, ex ministro Kyenge, non è reato di razzismo. Così in pratica stabilisce il Senato con una procedura che riguardava il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, che, sapete, aveva dato dell'orango al ministro Kyenge. È successo che al Senato è stato scorporato il reato presunto di diffamazione da quello con l'aggravante di istigazione razziale. Ed è successo che si è dato il sì a procedere nei confronti di Calderoli da parte dell'Aula del Senato per diffamazione, ma il no all'aggravante di istigazione razziale. Quindi una decisione così, metà e metà. Tanto che l'ex ministro Cécile Kyenge, oggi europarlamentare del PD, intanto prende carta e penna e scrive all'Unità, ed è l'editoriale di prima pagina: sono triste e amareggiata, è incomprensibile come si possano ritenere insindacabili le parole di Calderoli, cioè di chi dovrebbe onorare le istituzioni e il paese. Non penso alla mia persona, scrive Kyenge. Non sto portando avanti una causa che riguarda l'oggi, ma il domani. Un politico deve essere lungimirante. Chi si siede all'interno delle istituzioni ha una responsabilità maggiore, non svolge un lavoro per se stesso. Queste parole di Calderoli sono state inequivocabilmente razziste, varcavano il limite del rispetto della dignità della persona in ragione delle mie sembianze, del colore della mia pelle. Se non è razzista dare dell'orango a una donna nera, allora tutto è possibile con buona pace delle conseguenze. Vuoi dire che abbiamo smarrito il senso delle parole? Forse non solo quello. Il messaggio di questo voto è che la politica è irresponsabile, che non c'è un confine all'uso di parole che avvelenano la società, seminando odio razziale. Io vado avanti per i giovani che ci guardano e per la mia dignità. Mi piacerebbe che venisse fuori l'Italia migliore. So che c'è, vorrei vederla anche nelle istituzioni. Così Cécile Kyenge, che intervistata poi da Repubblica, da Tommaso Ciriaco, va oltre e ipotizza la propria uscita dal Partito Democratico. Tradita dal PD, non so se resto. Questo è il titolo. Ho ricevuto certo la solidarietà della delegazione del mio partito a Bruxelles, ma questa è la risposta alla domanda: è stata chiamata da Renzi? Ecco, la risposta è questa. La solidarietà c'è stata dal mio partito a Bruxelles. Rimarrà nel PD? Posso dire che dipende dai comportamenti che ci saranno nei prossimi giorni. E dunque Cécile Kyenge forse lascia. Per la verità Calderoli, definito dall'Unità Calderoli il razzista, fa un'intervista alla Stampa. Ne anticipo uno stralcio perché poi la terremo più avanti, perché soprattutto parla del Senato, la battaglia del Senato, ma riguardo alla vicenda Kyenge dice: non voglio più parlare di quella vicenda, ho detto che di questa storia non parlo più, ho già detto tutto in Senato. E dunque liquida così la faccenda, ma Calderoli lo riprendiamo sulla vicenda Senato più avanti. Prima siamo al momento dell'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani strette sul volante se siete alla guida. Ed è su Repubblica, è un'inchiesta di 2 pagine di Roberto Petrini che analizza i costi della pubblica amministrazione, gli acquisti pubblici, quando non avvengono attraverso la Consip, cioè attraverso la società che lavora per la pubblica amministrazione. Ebbene, secondo uno studio di Repubblica, documento del Ministero del Tesoro che Repubblica anticipa, i prezzi a consuntivo pagati dalla pubblica amministrazione di molti prodotti restano alti, superano il 70% in più, perché si utilizzano degli escamotage per uscire dal capitolato, uscire dalla convenzione con la Consip e fare acquisti non utilizzando la Consip. Per cui una stampante che può costare attraverso la Consip 39 euro arriva a costare sul prezzo di mercato 122 euro. Un PC che viene pagato dallo Stato 445 euro viene fatto pagare fuori dalla Consip col 25% in più. La benzina, che attraverso il sistema Consip si può pagare a un certo prezzo, viene pagata il 12,2% in più quando viene comprata fuori dalla procedura Consip, e così via. Aggiungete cifra su cifra su cifra, si paga fino al 70% in più per stampanti e benzina, tutti gli sprechi record negli acquisti pubblici. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, al posgato dell'informazione, ma va a dirà da Piacenza. Evviva Piacenza! Evviva Piacenza, vi voglio da tutta Italia, cari ascoltatori, le vostre sigle allo 0246524492. Forza, forza! Allora, inizia la battaglia al Senato. Siete pronti? In aula? Seguirete questa battaglia epocale sulla riforma del Senato, oppure oggi, che ne so, deciderete di andare a lavorare, se avete un lavoro, o di occuparvi delle vostre faccende? Perché la questione è seria. Non c'è dubbio di quelle che saranno le vostre priorità, ma per i giornali pagine su quello che sta per succedere al Senato. Allora vediamo di sintetizzarlo così. Se è saltato il passaggio in commissione, si va direttamente in aula, dove Renzi continua ad assicurare ci sono i numeri. Ieri ha incontrato anche Tosi, Flavio Tosi, e voi dite: che c'entra? Beh, Flavio Tosi, che a forma si è staccato dalla Lega, espulso dalla Lega, ha fatto questo movimento Fare, controlla 3 senatori. E questo per dire che ci saranno anche i numeri, ma forse si sta cercando di recuperare voti di chiunque, anche perché all'interno del Partito Democratico non si sa quanti saranno pronti a una sorta di fronda al Senato. Il ministro Maria Elena Boschi, intervistata dal Corriere della Sera, un'intera pagina intervistata da Monica Guerzoni, dice: io non sono per nulla in ansia, non sono preoccupata per i numeri, oggi ha vinto l'Italia, non c'è nessun rischio, se avessimo avuto paura avremmo cercato di fare melina. In commissione si era creata una fase di impasse. Calderoli con i suoi 500.000 emendamenti ha fatto spendere un sacco di soldi al Senato, poi 10 minuti prima della capigruppo li ha ritirati, tanto per dare il senso di quanto fossero importanti. Comunque, siamo corsi in aula perché in commissione la maggioranza non aveva i numeri, ma certo che c'erano, risponde il ministro Boschi. Il piano andava spostato all'aula perché il confronto politico era bloccato. Il voto sul calendario vede uno scarto di oltre 70 senatori. Per Calderoli, però, voi non avete i numeri, ce lo ha detto anche qui Calderoli 2 giorni fa, e risponde la Boschi, Calderoli è un fantasista, ma la realtà è più forte di lui. Poi si sposta la questione sul rapporto con Grasso, presidente del Senato, perché qui è il nodo politico, cari ascoltatori. Il cerino è nelle mani di Grasso, la vita del governo dipende dal presidente, ma che? La vita del governo dipende dal Parlamento ogni giorno, risponde Boschi. Grasso in mano non ha nessun cerino, ma solo la Costituzione e il regolamento del Senato. Ha detto che ci farà sapere in aula. Bene, adesso siamo in aula, lo aspettiamo. E dice e conferma Maria Elena Boschi alla domanda: tutti i voti sono buoni, anche quelli di Verdini, Tosi e Berlusconi? Sì, se chi le ha votate le rivotasse, la riforma avrebbe più valore. Poi vabbè, conclude anche sulla domanda: sogna di fare il premier? Guardi, faccio sogni molto più belli, mi creda, di fare il premier. Così Maria Elena Boschi, e non fate subito pensieri sui sogni di Maria Elena Boschi. Intanto perché vi conosco a voi maschietti soprattutto, vi conosco. Allora, dicevamo di Grasso. Sapete come tra i renziani viene definito Grasso? Lo racconta Francesco Bei su Repubblica, pagina 3. La sfinge, impassibile, perché tutti cercano di capire come si comporterà Grasso una volta in aula. E lui continua a dire: parlerò in aula. Parlerò solo quando si capirà quanti e quali emendamenti saranno presentati. Il mio ruolo è quello del giudice di appello. E questa dichiarazione, scrive Francesco Bei su Repubblica, ha lasciato esterrefatti i renziani, ma il presidente del Senato è fatto così. Anche con Anna Finocchiaro in questi giorni, che Anna Finocchiaro l'ha cercato 2 giorni, non si è fatto trovare, dice Anna Finocchiaro dallo staff di Anna Finocchiaro. Le mie porte erano sempre aperte, rispondono dallo staff di Piero Grasso. Insomma, un inghippo politico. Grasso parlerà e bisognerà capire se ci sarà la riapertura sulla votazione dell'articolo 2, quello che per Renzi e renziani è già stato votato e quindi deve essere chiusa la questione. Ecco, tutto questo è il nodo politico. A proposito di emendamenti, riprendiamo l'intervista di Calderoli, che sulla Chienghe non parla nulla, non dice nulla, ma sulla stampa Calderoli parla della questione emendamenti, lui che ne ha presentati 500.000 e poi ieri li ha ritirati. Marco Bresolin gli chiede intanto: ma senta, lei li ha ritirati in cambio proprio di non essere perseguito per razzismo nei confronti della Chienghe, una sorta di inciucio politico col PD? Così dice il Movimento 5 Stelle. Capire la politica non è da tutti e mi spiace per i senatori grillini, così Calderoli, che aggiunge: gli emendamenti? Guardi che sta per arrivare una sorpresina. Una bella sorpresina, e cioè quanti ne presenterà ancora? Non sono in grado di contarli, ma credo che arriveremo a 7 zeri, una valanga. Beh, già qualche giorno fa Calderoli e anche i nostri microfoni aveva confermato: ho pronti 8 milioni di emendamenti per bloccare la riforma del Senato. Staremo a vedere, andate a lavorare serenamente. Andate a fare le vostre faccende anche oggi, nonostante la battaglia al Senato. Va bene? Libero racconta però che per Matteo Renzi, o meglio per il padre Tiziano, potrebbe venire oggi da Genova qualche problemuccio. Ed è questo: il Tribunale di Genova, racconta Giacomo Amadori, decide con il GUP, quindi per il giudice per l'udienza preliminare, se di sciogliere o meno la riserva sulla posizione di Tiziano Renzi, che è indagato per bancarotta fraudolenta. Per la verità i PM Nicola Piacente e Marco Airoldi hanno chiesto l'archiviazione, ma l'istanza non è stata ancora accolta dal GUP, che oggi potrebbe dunque accoglierla oppure respingerla. E oggi Libero pubblica tutte le carte, per esempio racconta con Giacomo Amadori su questa accusa di bancarotta uno strano prestito, lo definisce Libero, tanto che attira la curiosità dei PM, ruolo avuto da Lotti, Marco Lotti, bancario, ma soprattutto papà di Luca Lotti, sottosegretario della presidenza del Consiglio renziano, che ha prestato con la sua banca, la banca filiale di Pontassieve, banca di credito cooperativo di Pontassieve, 700.000 euro alla società CIL, di cui faceva parte appunto il papà di Matteo Renzi e su cui nei mesi scorsi non sono mancate le polemiche. Infatti nel 2010 quel debito venne rifilato da Renzi Senior e dunque dal papà, insieme a una parte dell'azienda, a un pensionato di Campo Ligure, il 75enne Gianfranco Massone, col risultato che quasi mezzo milione non è stato più restituito. È tutta un'inchiesta di due pagine, Libero intervista anche Mariano Massone, il figlio del pensionato a cui è stata ceduta parte della società e di questo prestito. È tutto ovviamente un intrigo. Lui dice: ma che prestanomi, non siamo prestanomi di nulla, questo Massone, abbiamo solo fatto degli affari che sono andati male, e il papà di Renzi con me è sempre stato corretto, credevo di poterci guadagnare quando mi ha ceduto questa società. Comunque sta di fatto che oggi il GUP deciderà, vuole decidere prima del GUP Mauro Meazza se mandare a processo oppure mandare a archiviare tutto per il papà di Renzi. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, ma temo di non avere l'autorità necessaria per prendere codeste decisioni. Va bene. Vorrei invece interpretare il pensiero di molti ascoltatori e salutarti con un caro debosciato. Caro perché... debosciato, sì, molti mi criticano per questo, non capiscono che da parte mia. Secondo me, guarda, con altrettanto affetto io ti darei del debosciato. Ma sì, ma è come quando si dà del figlio di buona donna, ma in maniera, no? In maniera scherzosa. Vabbè, certo. Vediamo però se mi incontri poi più tardi in sede mi dai del figlio di buona donna, non so se poi io la prendo sul ridere. Vabbè, senti, ma dai, vorrei darti delle buone notizie, per quanto, diciamo, di portata ridotta. Perché, come riferisce oggi Sole 24 Ore, il ministro Padoan ha detto: aboliremo la TASI anche per la quota inquilini. Sì, tu dici. Insomma, poco, ma tutto fa. Peccato però, insomma, Gianni Trovati ha fatto due conticini, sempre sul Sole 24 Ore, e dice sì, però in realtà ha reso 100 milioni. E sono, certo, sono tanti soldi, ci mancherebbe altro, ma nel bilancio complessivo dell'imposta non è che poi... sia tutto questo sconto. Comunque rendeva poco, ma ce la rende poco, perché ancora bisogna vedere, ma ce la toglieranno, così ha annunciato il ministro. Noi ne siamo contenti. Dalla TASI si aggiunge una S, passi ai tassi, ma già sai che il Sole 24 Ore oggi si presenta con le attese per quanto riguarda la decisione della Fed sui tassi. È una decisione molto importante, non ti voglio tediare, ti rimando alle pagine 2-3 dove ti spieghiamo perché e come questa decisione potrebbe influire su tutta quanta l'economia. Ti voglio invece chiedere se puoi mostrare agli ascoltatori la grafica che abbiamo oggi a pagina 8. Eccola qua. Oh, ecco, perché forse lì si riesce a capire. Si capisce benissimo. Mi sembra molto chiara, no? Sì. Si riesce a capire esattamente come funziona adesso la voluntary disclosure. Ecco, e lì ci sono tutte le date praticamente, 30 settembre, che però che è il tutte le date per presentare... al 17 settembre, perché poi il 18 succederà. Noi, come dire, anche domani poi se aggiorneremo, provvederemo a tenere aggiornato il calendario, però come possono vedere chiaramente tutti gli ascoltatori, c'è questa data del 30 settembre per presentare l'istanza, che poi dà tempo fino al 30 ottobre per completarla, ma comunque al 14 ottobre, se l'avessi già presentata, hai tempo comunque per completarla, però adesso si pensa di andare fino alla fine dell'anno. Però, tutto chiaro? Chiarissimo, capito tutto? No. La grafica parla per te. Esatto, la grafica è molto chiara. Vediamo, perché si ipotizza anche un rilancio possibile, una cosiddetta riapertura, insomma, della volontà di disclosure anche per l'anno prossimo, e quindi potremo ancora canzonarci a lungo sul tema, caro Alessandro. Bene. Vedremo un po'. Intanto ti voglio dire che oggi, essendo giovedì, perché è giovedì, giusto? Sì. Essendo giovedì c'è Casa 24, parliamo di parecchie cose nelle pagine di Casa 24, tra l'altro anche di polizze sui mutui. Questo è una cosa, sai, che è molto importante, perché non c'è sempre molta chiarezza, diciamolo così elegantemente, sulle polizze che vengono fatte sottoscrivere quando accendi un mutuo per la casa. Sì. Adesso c'è stato un intervento dell'IVAS, l'Istituto di Vigilanza e Assicurazione di Banca d'Italia, per richiamare a una condotta, diciamo, più trasparente. Poi ti voglio segnalare che nelle pagine norme e tributi, che tu sempre devi leggere religiosamente, caro Alessandro, mi raccomando religiosamente, si parla anche di una decisione importante della Cassazione sulla cassa dei ragionieri. Bene. Perché tu dici, bene, chi se ne frega, io non sono un ragioniere. No, perché lì hanno detto che i tagli decisi post 2007 dalla cassa vanno bene, si possono fare tagli anche alle pensioni in essere. Ma leggi tutto, ti spiega bene Maria Carla De Cesari. Adesso scusami, vado, perché sono preoccupato dell'emendabilità dell'articolo 2. Ottimo. E quindi sulla cosa mi mette un po' d'ansia, vorrei concentrarmi bene bene su questo argomento. Ovviamente anche di questo parliamo sul Sole 24 Ore, ma ti saprò dire meglio domani. Devo stare concentrato adesso. Caro Alessandro, traffico! A Milan, muovete e dà la letta a sti giornali, va! E allora eccoci qui, ci scrive un ascoltatore: essendo giovedì, altro che Casa 24, c'è il mercato a Mantova. Ebbene Francesco, grazie, tutti al mercato a Mantova. E allora parliamo invece di immigrazione. Le immagini che provengono dall'Ungheria le avete viste nei giornali, le avete viste in rete: manganelli e lacrimogeni contro i migranti, questo è il titolo di Repubblica. Gli scontri al confine con la Serbia, 300 feriti, 29 arresti, e tra l'altro con molti migranti che dicono, se non ci fanno andare dalla Serbia all'Ungheria, sapete che l'Ungheria ha messo su un muro con tanto di filo spinato, passiamo per la Croazia. Basta guardare una cartina geografica, passiamo per la Croazia un po' più a ovest, poi dopo la Croazia un po' più a ovest c'è la Slovenia, e poi un po' più a ovest della Slovenia, indovinate chi c'è? Ecco, ci siamo noi. Ma sugli immigrati c'è interessante due articoli che vi volevo segnalare. Un'iniziativa della regione Lombardia, ne scrive La Stampa a pagina 5. La Lombardia punisce gli hotel che danno disponibilità e ospitalità ai rifugiati. Niente bandi e finanziamenti per chi ospita in albergo i richiedenti asilo, a meno che non siano le autorità ad imporre l'accoglienza. Così andrà in Lombardia grazie a una nuova legge regionale approvata ieri sera. Una riforma del sistema turistico su cui si è litigato per due giorni, tutto per una postilla voluta dalla Lega e alla fine appoggiata da tutto il centrodestra, è quella che riserva concorsi e fondi solo agli operatori che abbiano un fatturato integralmente derivante dall'attività turistica. Ed ecco che chi invece ospita rifugiati non ha, e quindi non turisti, viene escluso da bandi e fondi. Questo è l'escamotage, racconta Stefano Rizzato sulla Stampa in Lombardia. L'unità, e la faccio anche vedere a chi è collegato in diretta su Periscope da questo momento, l'unità dedica una pagina a questo tema: castigo di Maroni per chi accoglie i profughi in hotel. C'è anche un'intervista al prefetto Morcone, che si occupa al Ministero dell'Interno di immigrazione, e dice, intervistato da Claudia Fusani: quello della regione Lombardia è un atto incomprensibile e illegittimo. Prefetto, perché illegittimo? Perché è incomprensibile che chi fa il proprio lavoro legalmente, in modo trasparente, pagando le tasse, sia penalizzato per motivi squisitamente politici. L'albergatore che decide di partecipare ai bandi gara per l'accoglienza e ospita nella propria struttura, magari vuota, i migranti, svolge una regolare attività d'impresa. Faccio mie le parole del responsabile Federalberghi: decidere di punirlo per questo è un atto ingiusto e discriminatorio. Così il prefetto Morcone. Dunque la polemica. La polemica c'è anche su Libero. Libero titola in prima pagina, eccolo qui: dentista gratis ai clandestini. L'articolo poi a pagina 3 con Dino Bondavalli racconta che le ASL, molte ASL in Italia, sarebbero ingolfate da chi non versa il ticket, perché basta un'autocertificazione per chi non ha soldi, per chi è in difficoltà, e poi alla fine i soldi li mette la regione. E racconta Libero, almeno il 50% delle prestazioni erogate da alcuni dentisti di questo tipo sono a favore di stranieri. E quindi ecco da qui il titolo: dentista gratis ai clandestini. Sull'immigrazione, su questo tema, vi segnalo un bel reportage di Adriano Sofri. Adriano Sofri in Iraq. Così l'ISIS, lo Stato Islamico, avanza in Iraq. La verità dietro ai rapporti manipolati dai servizi è un reportage di 2 pagine, ne mostro solo una per Periscope, ma racconta di come lo Stato Islamico stia conquistando città, l'ultima è Ramadi, sempre più vicine a Baghdad, dunque come lo Stato Islamico si stia allargando. Beh, vabbè, non c'è tempo per leggere tutta la vicenda giudiziaria. Ieri si è presentato in aula con il viso sfigurato dall'acido Stefano Savi, colui che è stato sfigurato da Alex Böttcher, uno dei 2 imputati in questo processo, accusati di avere appunto sfregiato molte persone, diverse persone. E su tutti i giornali c'è questa rappresentazione: guardo in faccia i miei aggressori e non tocca a me abbassare gli occhi, ma a loro, agli imputati. E tutti i giornali mettono in pagina anche il coraggio di questo ragazzo che ha già subito diverse operazioni e che si è voluto presentare in aula per guardare in faccia colui che è accusato, o i tre accusati per la verità, dell'aggressione nei suoi confronti. Va bene, siete contenti che su Facebook stanno studiando anche il mi dispiace? No, non sarà proprio così, perché non si vuole creare l'odio sociale, ma Zuckerberg ha detto che, rispondendo alle milioni di domande in questo senso, stiamo studiando qualcosa al di là del mi piace. Che ne so, quegli emoticon, magari non il non mi piace, che è un po' brutto, mi dispiace, non lo so, qualcosa, ma non ci sarà solo il mi piace tra poco su Facebook. Chi se ne frega, dite voi, ma non è questo l'articolo di chi se ne frega. L'articolo della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è questo: io, papà a casa e lei in carriera, un'intera pagina del marito della consulente di Clinton, Anne Marie Slaughter, che sta a casa e cura i figli, una cosa che fanno non tantissimi papà, ma tanti papà in tutto il mondo, ma non finiscono una pagina sul Corriere della Sera, lo fanno in silenzio e non rompono i maroni. Ma chi se ne frega! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milano. Ciao Milano, che te portino via fuoco. Tu sei un mascalzone. Alessandro Milano, sempre breve e circonciso. Allora, cari ascoltatori, le 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua. Un ascoltatore via SMS prima mi ha scritto: settimana scorsa ero in Francia, la domenica, tutti i negozi chiusi, una tristezza. E un'altra, Maria, anche lei mi ha scritto: anch'io sto con te, i negozi aperti sempre. Però mi aggrappo, mi aggrappo a questi 2 messaggi. E a pochi altri di favore, perché in realtà da ieri sono subissato di critiche, anche insulti, quelli non mancano mai, puntualizzazioni, semplicemente perché ho detto che ritengo sbagliata l'idea di tornare indietro sul fronte delle liberalizzazioni e tornare alle chiusure dei negozi, le chiusure domenicali. Intanto lo chiedo a voi, che ne pensate, cari ascoltatori? Il numero verde 800 24 00 24. Vi piace l'idea che 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, ci possono essere i negozi aperti? Oppure vorreste un modello economico diverso, come in Germania, dove appunto mi hanno fatto notare che ci sono le chiusure, o in Francia? Il dibattito c'è, ci sono anche diversi disegni di legge, i partiti più o meno sono d'accordo a dire innestiamo un po' la retromarcia, lo chiedono non solo i partiti, lo chiedono i sindacati, lo chiede più volte, l'ha chiesto anche la Chiesa, no? La Chiesa dice la domenica bisognerebbe dedicarla ad altro, non a fare shopping. Lo chiedono anche molti commercianti, pensate alle piccole botteghe, io le capisco come fa un macellaio di paese che magari lavora lui e la moglie a competere con la grande distribuzione che ha 50-100 dipendenti e può tenere aperto quando vuole. Insomma, il dibattito c'è. Voglio salutare il senatore della Lega Nunziante Consiglio. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Lei è uno degli autori di un disegno di legge che vuole ripristinare alcune festività in più, cioè l'obbligo di tenere chiusi in alcuni giorni ben specifici, tipo Natale, l'Epifania, il primo maggio, e poi quali altri giorni, senatore? Ma guardi, questa questione legata agli attività commerciali, l'apertura, le chiusure eccetera, per quanto riguarda il nostro movimento parte da molto lontano, addirittura con dei ragionamenti urbanistici per evitare poi che si riempiano le province, i comuni di centri commerciali nuovi, quindi è tutto un discorso che è un discorso più complesso, no? La difesa, la difesa delle botteghe, la difesa dei piccoli artigiani, dei piccoli commerciali. Poi altra questione, noi abbiamo una morfologia territoriale costituita da 8.000 rotti comuni, non tutti sono Milano, non tutti sono Napoli, Bologna o Firenze, e ci sono le vallate come dalla mia parte in Bergamasca dove trovi comuni che hanno magari 500 abitanti piuttosto che addirittura di 80, e anche lì la questione diventa estremamente complicata nel voler pensare di dover prendere la macchina e fare 30 km la domenica per andare al centro commerciale. Sì, poi guardi, senatore, aggiungo anche questa tra le critiche subito. Scusi, Milan, mi scrivono, sua moglie non credo faccia la commessa, vero? Ecco, anche l'altra critica, quella che io sarei un, come dire, uno schiavista, un affossatore del lavoro altrui, soprattutto delle commesse o dei commessi, che quindi vorrei loro male perché li vorrei far lavorare la domenica o anche Natale. Vabbè, ma lasciamo stare. Si parla tanto di famiglia, di educazione dei figli, di stare insieme, di oramai in un momento storico in cui internet piuttosto che altre questioni la fanno da padrona, se poi una gran parte di gente che lavora la domenica non riesce a stare a casa diventa anche estremamente negativo. No, ma certo, ma sono tutti aspetti, senatore, che io capisco, cioè mettiamo insieme il no a voler riempire i centri commerciali, il sì a difendere anche i piccoli commercianti, le piccole botteghe nelle vallate dove magari, il volere anche ripristinare un senso di stare insieme, di familiare, di educazione. In concreto che cosa prevede la sua legge? Ma dire che la mia legge è un po' forte, diciamo che parte un po' da centrodestra in generale alla Camera, dove molti partiti hanno, diciamo così, presentato una propria legge, ce n'è una della Lega, ce n'è una della sinistra, ce n'è una di altri gruppi, hanno cercato di fare un po' una sintesi con quello che è uscito dalla Camera come atto della Camera, su cui bisogna dirlo ci sono stati forse 20 astenuti, poi hanno votato tutti a favore, dove hanno ripristinato 12 feste dove bisogna tenere chiuso, insomma, partendo dal primo di gennaio arrivare al 26 di dicembre, che è la festa di Santo Quindi Stefano. Quindi appunto movimenti bipartisan, appoggi bipartisan. Però senatore, intanto guardi, le voglio presentare un ospite che ha uno sguardo internazionale, è il nostro grandissimo Alberto Forchielli, che è fondatore di Mandarin Partners, presidente dell'Osservatorio Asia, vive tra Hong Kong, Monaco di Baviera, Boston, quindi un po' di sguardo sul mondo ce l'ha. Albertone, buongiorno da Hong Kong. Ciao Alino, ciao. Eccoci qui. Ciao. Ti ascolta il senatore Nunziante della Lega, Annunziante Consiglio. Allora Forchielli, intanto in Germania è vero che ogni tanto sono chiusi i negozi, cioè la domenica sono chiusi? No. Sono chiusi, sì. Sono chiusi. I tedeschi te lo dicono, perlomeno quello che frequento io, te lo dicono con un senso un po' di vergogna, come dire, siamo un po' arretrati, dispiace. I tedeschi. Sì, così, però la gente che frequento io, sia medio borghese, te lo dice, ma sai, qui è tutto chiuso purtroppo. Infatti era ben triste stare in Germania con la domenica chiusa. Ah, ecco. Che io sapevo cosa c'è Monaco. Cioè, non è che io vado al lago, faccio Purtroppo i miei figli sono grandi, io rimanevo lì, sarei andato volentieri alla postura. Ah, dice, avendo due bambini piccolini sarebbe bello fare la gita al lago, invece dice la domenica. Cioè, no, io ormai sono nonno, cioè, per cui per me non bello è stata quell'esperienza. A Hong Kong invece è tutto aperto 24 ore su 24? Sì, no, 24 su 24 no, ma chiudono alle 9 di sera, poi la domenica sono sempre aperti. Grande città, grande centro urbano, ovviamente una fattispecie diversa rispetto a quello del paesino del Bergamasco. Insomma, io sarei per una soluzione modulare sul territorio, non vedo perché si debba trattare l'Italia alla stessa maniera. E poi sai, io sono uno sempre per la libertà, perché qui, allora in sta legge mettiamoci anche le targhe alterne, il coprifuoco, il preservativo obbligatorio, il casco integrale in bici e la cintura di sicurezza al cinema, siamo a posto. Cioè, non si può dettare per legge agli italiani cosa fare. Questo è tu lo vedi come secolo. Una limitazione di libertà. Ma sì. Una limitazione di libertà. Ma sì, alla fine il cercare di legiferare, dire no, adesso no, ti chiudi i negozi perché devi stare in famiglia la domenica, mi fa un po'. Capito? Sono molto sensibile al fatto della grande istituzione che schiaccia i piccoli. Attenzione, quella è una roba che non mi piace neanche un po'. Però il ragionamento di dire dovete stare insieme, per cui ti chiudi i negozi, no, a volte uno deve andare anche per esigenze, per necessità, non è che... E poi, intendiamoci, la gente che va fuori consuma, crea occupazione, qui, capito, io ne ho abbastanza di serrande chiuse, capito, Bologna è mezza chiusa. Mezza chiusa. Io non so, e lo Stato guadagna di più, l'economia guadagna di più con dei passi carai e delle serrande abbassate o con la gente in giro che compra? Cioè, quindi anche i consumi, qualcosa che rilanci i consumi. Però Alberto, tu hai anche, ti poni come l'ascoltatrice che mi scrive, dice, ti poni nell'ottica di quella che dice tua moglie non farà la commessa e i diritti dei lavoratori, e per carità, i diritti dei lavoratori sono sacrosanti, faranno i turni, immagino, bisogna rispettare i diritti di tutti. Ti poni in quell'ottica? Sì, guarda, devo dire, io su questo sono ignorante, nel senso che io non so se i lavoratori sono obbligati a lavorare la domenica o se hanno l'opzione di lavorare, se guadagnano di più o guadagnano di meno, quindi su questo aspetto sono fragile, capito? Sì. Io, così, di obbligare la gente a lavorare la domenica non è bellissimo, capito? Però, per cui non so veramente dove stia il confine su questo fatto del laborale. Cioè, una cosa che mi ha confortato delle cose che ha detto il senatore, che non sembra essere un'iniziativa del sindacato, quindi mi rassereno, perché ormai Landini testa calda, è stato un grandissimo trattore, ha fatto la storia industriale e agricola del paese, però adesso la vegna basta di Landini testa calda. Cioè, no, cioè. Devo dire senatore Consiglio, che in realtà anche i sindacati, credo la CGIL abbia appoggiato l'abbia appoggiato, però senatore non parte dai sindacati, cioè in realtà è un qualcosa che no, diciamo che la questione è stata valutata da tutti i vari gruppi che hanno partecipato nella stesura di varie proposte di legge che poi sono state così un po' assemblate. Cioè, per esempio la nostra della Lega era anche molto più dura, secondo noi 12 giorni potevano essere anche pochi. Sì. Però io volevo tornare un attimo indietro alla prima considerazione che lei ha fatto. Ma perché c'è all'accusa di voler limitare la libertà? Forchielli è uno che non ha peli sulla lingua. No, ma non è questione di limitare la libertà, perché quando è stata fatta la legge Monti probabilmente si pensava di dare più libertà. Poi chiaramente in corsa ti accorgi che ci sono delle questioni territoriali che vengono ad essere penalizzati. Per me il negozio di vicinato, quello che ha una conduzione familiare, deve essere tutelato. Prima si parlava della macelleria piuttosto che altre cose, è chiaro che deve essere tutelato. Ho capito, ma lo si tutela obbligando, che ne so, anche la grande distribuzione a stare chiuso perché così. No, le spiego. Allora, lì si parlava di una questione economica. Se io ho 100 euro al mese da spendere come budget familiare, sì, non è che se lo spendo la domenica ne spendo 200, o se le spendo il venerdì o il giovedì ne spendo solamente 80. No, però lei sa, magari uno va in giro, non ha quelle spese voluttuarie, va in giro trova aperto e magari spende. Certo, e si aiutano i consumi. Ti vai a comprare il televisore con 24 rate, eccetera, eccetera. Sì, d'accordo, però intendo dire, non è che si aumentano i consumi, si distribuisce la possibilità economica di ogni soggetto che ha 100 euro, facciamo un esempio, nella possibilità di spenderlo 7 giorni alla settimana e non solamente sì, sui 6 canonici o i 5 giorni e mezzo, perché ci sarebbe anche la mezza giornata di chiusura come i barbieri lunedì piuttosto che altri pomeriggi. Però io, la signora che è andata in Francia e dice i negozi chiusi, che tristezza, io mi sarei preoccupato invece di capire se ha trovato i musei aperti, che anche quelli lavorano la domenica e quindi i dipendenti sono lì la domenica. Voglio sperare, ecco. Sì, i musei aperti, se non sono aperti la domenica. In Italia non succede, allora noi ci preoccupiamo della grande distribuzione che ha, giustamente deve fare business, ci mancherebbe altro, per l'apertura domenicale magari 24 ore su 24 e poi i musei sono chiusi magari. Beh, interessante. No, ma infatti non ho capito, Alberto Forchielli, se la trasmissione sta prendendo una piega prettamente economica o anche culturale, perché poi, ma tu nel mondo questo approccio lo vedi nei paesi in cui viaggi? In America, per esempio, è tutto aperto, immagino, no? Tutto aperto, sì, come vediamo nei film. Sì, ma anche il giorno di Natale ci sono dei negozi che fanno le 24 ore, L.L. Bean's Freeport in Maine fa 24 ore, quindi si va anche alle 2 di notte. Però ti dico, ossia, di solito i paesi moderni sono molto aperti e hanno una forte propensione al consumo. E quindi. Cioè, non è una questione. Il paese anche per i turisti, ste robe chiuse, sui musei non si discute, per carità, su quello non si discute. Io però. Ti dico, sono per una scelta di libertà. Cioè, se ovviamente, diciamolo chiaramente, se il pakistano vuole lavorare 15 ore al giorno e per lui non ci sono sabati, non ci sono domeniche, dico il pakistano per dire, spesso sono gli stranieri, no? Anche a Milano, quelli che tengono aperti, i cinesi, va bene così? Ah no, attenzione, lì ci sfondano, perché pakistani e cinesi hanno un'economia familiare. E quelli fanno anche la notte, capito? Quelli appunto, non vedi che comprano i bar, tutto. Ossia, se questo, non c'è dubbio che un'apertura senza controllo, il piccolo dettaglio si chiama l'immigrazione, perché è più forte l'immigrazione, capito? Gente che ha fame, gente che ha più energia, capito? Noi siamo dei morti in piedi rispetto a loro. Certo. E famiglie più grandi anche, attenzione. Quindi il figlio che va col padre, molto diverso. Sì. Sotto questo aspetto, sì, certo che. Io sono a Bologna pochissimo, proprio una domenica l'anno, però per il pakistano sotto che ha tutto fa un bel comodo. Fa comodo. Riprendiamo da qui dopo la pubblicità con Alberto Forchielli e il senatore Consiglio, se può stare ancora con noi. Le vostre telefonate 800 24 00 24. Quando Forchielli viene una domenica l'anno a Bologna e c'ha il pakistano sotto casa aperto, quello sì che fa comodo. Tra poco. Allora, io lo sapevo, vi state scatenando, vi sms al 349-238-6666. Chi mi scrive, ma dov'è il problema? Chi vuole star chiuso la domenica stia chiuso, non bloccate chi vuole lavorare. Oppure chi critica, ma dai, ma dopo anni di crolli dei consumi ora chiudiamo anche i negozi? O Vito che scrive, perché difendere solo le commesse? Fermiamo allora anche i treni, chiudiamo gli ospedali la domenica? Chi fa notare che ci sono aziende che lavorano 24 ore da sempre? Daniela che scrive adoro Forchielli e va bene, Alberto Forchielli è con noi insieme al senatore Nunziante Consiglio della Lega e tanti ascoltatori. Inizierei da Bruno che chiama da Bologna, la Bologna di Forchielli. Bruno, buongiorno. Difatti mi sono arrabbiato perché un bolognese non sa trascorrere le domeniche nei musei o quant'altro di più interessante che guardare i negozi. No, va bene. Gliele dica quattro a Forchielli, no, Bruno. No, io sono... Allora, gestisco un'attività commerciale, no? Anzi, adesso sono i miei figli, ma sono ancora, diciamo così, a borderline, no? E ho due negozi, uno in un centro storico, io sono consigliere comunale anche a Casalecchio, che cosa ho fatto? Ho fatto una battaglia su sta roba qui, no? Cioè, la battaglia per le chiusure o per la libertà? Sì, per le chiusure, io ho un negozio nel centro storico, un negozio in un centro commerciale che è uno dei più belli dell'Emilia Romagna. Sì. E quando è arrivata l'apertura domenicale, accidenti a me, quando questa è stata tutta roba di Bersani, no? Sì. Allora voi dovete capire che gli affitti nei centri commerciali si pagano in base ai volumi, agli incassi. Bene, ti prendono 7-8%, 10%, sì. E quindi chi guadagna è la proprietà del centro commerciale, perché allora dalle aperture domenicali, che adesso, perché siamo obbligati a stare aperti, sì, attenzione, sì. C'è tutto un giochino che è molto complesso, ha dovuto anche assumere qualcuno magari, perché esatto, ce la fa. Esatto, sì. E quindi quell'assunzione mi porta a una perdita secca. Però secca. Ha creato, ma non posto, solo ha per creato me, un posto di lavoro. Però. Ah, se ci vogliamo divertire, anche quel signore può aprire attività commerciale e via. C'è quel signore che dice: ma sì, tutti possono aprire attività commerciale, sì. Ci sono delle serrande chiuse. Provi a provare. Allora, la grande distribuzione, che cosa ha fatto? Io vado dagli anni 80, apro il primo centro commerciale a Bologna. Sì, sì. No? Io ho perso 20% secco. Sì. Quando è aperto il secondo, dove io fortunatamente sono riuscito a inserirmi, con grossi sacrifici, perché poi uno non sa cosa ci sta dietro, ho perso un altro 30%. Vabbè, quindi... Bruno, io non lo so, ma no, mi dispiace, ma nella sua esposizione anche un po' a tratti confusa, avete insieme un po' di robe, insomma, ho capito che lei è contro, perché ci guadagna i centri commerciali e i negozi di prossimità, chiamiamoli così, sono un po' più in difficoltà. Sentiamo Rosella da Milano, buongiorno. Buongiorno Milan. Eccoci. Buongiorno Samina. Allora, io sono commerciante e senz'altro non sono d'accordo per l'apertura domenicale, sì, perché rispetto i miei lavoratori. Rispetterei anche i lavoratori di tutto il settore, i lavoratori del commercio. Sì. Non capisco perché devono essere discriminati nei confronti di un lavoratore della banca, della posta, della dell'ospedale. Allora, il giorno che io potrò andare alla domenica in banca, in posta, sì, all'ospedale a fare i prelievi, magari potrebbe essere giusto. Beh, l'ospedale, ecco, non a fare il prelievo, ma l'ospedale fortunatamente è aperto 24 ore su 24. No, anche, ma l'ospedale è aperto per l'urgente. Però uno mi dice e mi chiede perché la difesa, ecco, diciamo delle commesse, poi vuol dire è brutale, certo, le commesse, ma ho capito, per dire tutti quelli che lavorano in quel settore, allora il dottore che lavora, fa i turni anche appunto in ospedale, il vigile del fuoco, i funzionari, certo, di polizia, ma quelli sono funzioni indispensabili. Ah, ecco, per quello scusi, perché il fuoco non lo spegniamo la domenica. No, questo è chiaro, è chiaro Rosella, la ringrazio. Comunque Alberto Forchetti, qui c'è una rivolta anche del tuo amico di Bologna, anzi consigliere di Casalecchio. Ah sì, posso capire, cioè, io sto a sentire, in effetti questi centri commerciali hanno svuotato il centro di Bologna, che una volta era un salotto, adesso si è perso molto. Cioè, io non è che sia così innamorato dei centri commerciali, sono molto innamorato del centro città, vivo più possibile. Sì. Sto a ascoltare, non posso prendere. No, ma sai cosa ci dice un ascoltatore? Un ascoltatore ci dice: perché in America esistono ancora i valori e le famiglie? Tu credi in America è tutto aperto e quindi la buttano proprio sull'etico, no? Perché in America ci sono ancora i valori? Beh, il senso della famiglia, sì, è molto spiccato. Sì, no? Si mangia tutti insieme, si torna. Se non è che l'apertura dei negozi, capito? Cioè, magari uno fa 2 o 3 turni, poi non è che... Cioè, non stiamo a buttarla, stiamo facendo una tragedia. Sì. Purtroppo i paesi moderni vanno nella direzione di aperture, libertà, economia aperta. Questo è, quindi... E anche l'interesse dei consumatori è in quella direzione. Sì. Poi, se vogliamo difendere gli interessi delle categorie a professionali interessati, un altro discorso. Allora vorrei sapere dal senatore Consiglio, senatore, ma che possibilità c'è che passi questa legge? Perché pare che Renzi o comunque la maggioranza faccia orecchie da mercante, cioè passeranno queste proposte di legge? Guardi, le dico notizie fresche di ieri pomeriggio. Allora, è arrivata in commissione decima, che è quella di attività produttive, che ha il compito di valutare anche gli emendamenti che sono stati proposti al testo che è uscito dalla Camera, e è stato costituito proprio ieri un comitato su cui con tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari per mettere in condizione questa legge di essere comunque portata avanti e modificata in alcune parti. Ci però sarà io, l'iter. Perfettamente, però io volevo tornare un po' sulla signora Rossella. Sì? di Milano, che ha fatto la commerciante, anche sul Bruno di Bologna. Ecco, io veramente, chi non ha mai fatto la libera professione o chi non ha mai avuto un negozio, io metterei per legge l'obbligatorietà di 2 anni, in modo tale che uno capisce, soprattutto in questo momento, che tipo di dramma ha un piccolo negozio. Obbligatorietà di 2 anni di che? Di fare che? Per, uno deve tenere 2 anni per forza un negozio, cioè intendo dire, è una provocazione, come dire. Ho capito, ma se va male entrare, uno vuole chiudere, mannaggia. Per far capire come la leva obbligatoria. No? Ah, come la leva obbligatoria. Cioè, se apri un negozio lo trovi, almeno sei obbligato a tenerla per 2 anni, così capisci che scelta hai fatto. No, lei ha capito. Sì, ho capito la provocazione. Ha capito molto bene. Ecco, allora, perché è diventato estremamente complicato avere un negozio. Poi si parlava della questione legata agli affitti, sei già fortunato se hai l'immobile di proprietà, per cui quel 10% che probabilmente è quello che ti permette di vivere non lo devi dare a qualcun altro. No, ma è chiaro, è tutta una serie di cose. Però senatore, si fermi lì perché devo dare il traffico, voglio però, intanto la ringrazio, voglio rimanere con Forchielli ancora 2 minuti che gli devo chiedere 2 cose del libro e uno sguardo sull'attualità ma veloce in Italia. Tanto seguiremo l'iter di questa proposta di legge, glielo prometto senatore, il traffico. Allora, Alberto Forchielli ha scritto con Stefano Carpigiani questo libro, Trova lavoro subito, ne abbiamo già parlato, Trova lavoro subito all'estero, tutti i consigli su come orientarsi per chi vuole andare fuori dall'Italia a trovare lavoro. E Alberto, mi ha colpito quando ne abbiamo parlato l'altra volta, tu dici bisogna lavorare di più. Ecco, è questo forse che gli italiani non ci sentono. Poi io ho fatto 5 settimane di ferie, capirai. Bisogna lavorare di più. Io sono un cioccapiatto. Sì, bisogna lavorare, bisogna lavorare di più, bisogna lavorare con più impegno, con più qualità. Proprio senti quella differenza terribile quando chiami l'Italia. Ti rispondo, cioè, la mattina, oggi è lunedì, dottore, che fatica. Ma non te lo dice nessuno all'estero, lunedì, che fatica, capito? Sono tornato a lavorare, capito? Oppure ti ritorno l'email 2 giorni dopo, c'è proprio un lassismo, sto paese è mollo, è lento. Poi ti scrivo le mamme, ragazza, mio figlio voleva che facesse ingegneria, ma lui dice che è troppo difficile, c'è troppa matematica. Ma ragazzi, ma il futuro sta nelle materie quantitative, non possiamo scegliere gli studi in funzione del fatto che sono facili, capito? Tanto più facili sono adesso, tanto più dura sarà la vita dopo, capito? È chiaro. Non se ne esce. Capito? Quindi siamo un paese così, dove siamo un po' rammolliti. Siamo figli di mamma, viziati in casa, poi quando finisce la pensione del nonno vedete cosa succede. Quando finisce la pensione del nonno, mannaggia. Perché sono cazzi. Sono cazzi, sì. È perché ci sono un po' di nonni che adesso stanno mantenendo. Beh, l'economia del nonno, nonni giovani, in pensione, del due, ex infermieri, 2000 euro a testa, i genitori lavorano, i figli vanno avanti, quando non c'è più nonno. Che si fa? Quindi, questo ce l'hai già detto, scegliere le materie scientifiche, scegliere le materie del futuro, l'ingegneria, la matematica, ma anche tutte le scienze mediche, quelle nuove, no? Dei nuovi filoni, e poi lavorare di più. Ma è su questo. Sai che però uno mi ha scritto, guarda che invece in Germania tutti escono appunto alle 17, però qual è il problema? Che forse dalle 9 alle 17, dalle 8 alle 17 lavorano senza dire è lunedì, che è la prima cosa che penso io quando mi sveglio. Ma tu lo sai che io sono su Facebook, no? Ci sono dei gattoni che sono sempre lì su Facebook e mi dicono, Alberto, lascia stare il sabato e domenica, le ore di picco sono durante le ore di lavoro. Certo. Le ore di picco di visione dei social sono solo le ore di lavoro, cavolo. Questo non può essere, capito? Quindi la gente, in Italia soprattutto, cioè la gente invece di lavorare sta su Facebook. Cioè, Alino, un paese sta in piedi in due modi. O fa delle robe che costano meno degli altri, o fa delle robe che gli altri non sanno fare. Noi, costare meno degli altri, non c'è dubbio. Allora dobbiamo lavorare sulla qualità e fare delle cose che gli altri non sanno fare. Ma se non studiamo al giorno d'oggi, ma come facciamo a saperne più degli altri? Cioè, per fare delle robe che gli altri non sanno è un problema di scienza, di conoscenza. I nuovi imprenditori è gente che ha 3-4 lauree, 4 PhD, non c'è più l'ex contadino che fa la fabbrica di ceramica, capito? Sì, c'è in Cambogia però, non in Italia. Per cui lo studio, la conoscenza è fondamentale per il progresso. la qualità del lavoro. In Germania usciranno le 5, le 6, però la qualità del lavoro c'è tensione. Quando chiami rispondono, all'email rispondono subito, nessuno sta lì al telefono e la pausa caffè, questo e quella, c'è tutto un sistema. Proprio ce lo diciamo tra noi che viviamo all'estero, quando c'è da chiamare l'Italia, interagire con l'Italia. Disastro. Non l'imprenditore singolo, ma quando hai a che fare con un'organizzazione, se pubblica e privata una certa dimensione, senti proprio che affondi. Vabbè, e qui Alberto, invece io devo concludere. Qui sai di che si parla sui giornali? Io lo so, guarda, sono quasi imbarazzato. Tu che sei un della riforma del Senato. Adesso inizia questa battaglia, riforma del Senato. Ma guarda, è così. Allora, è incomprensibile dai giornali perché bisogna starci dietro, però l'eliminazione del Senato è sacrosanta. Ma non perché lo eliminano, non lo eliminano. Sì, lo so, ma è pazzesco, è una vergogna. Questi stanno ancora lì a parlare col paese che stava a fondo, ognuno fanno le eccezioni. Io in questo sono, mio malgrado, sono assolutamente renziano in questo. Non ne posso più di quella sinistra, di quegli... Basta. Vabbè, abbiamo capito, ormai dobbiamo eliminare i politici. Vabbè, addirittura. Dobbiamo ridurre i politici, basta. Cioè, sono un freno infinito. No, non ti far abbattere, che sei a Hong Kong, non ti far abbattere, avrai tante cose da fare. Ti ringrazio Alberto Forchielli, ricordo il tuo libro Trova lavoro subito, guardate che è un manuale per genitori e figli, genitori soprattutto, per capire come orientare i propri figli per andare a cercare lavoro all'estero. Trova lavoro subito, lo trovate in libreria. Noi andiamo avanti fino alle 9.30 dopo il giornale radio e tanti altri temi, state con noi. Sicurezza passiva, un nuovo ciclo del combustibile che non presti il fianco alla proliferazione nucleare, riduzione della pericolosità delle scorie a un livello accettabile e maggiore efficienza energetica. Buongiorno da Maurizio Melis, sono queste le promesse dell'energia nucleare di quarta generazione. Il nucleare oggi non attraversa certo un bel momento, insomma, in Europa e in Giappone, ma circa 500 reattori sono in funzione nel mondo e vari paesi, tra cui India, Cina e Stati Uniti, hanno programmi nucleari significativi. Al loro interno il nucleare di quarta generazione rappresenta la speranza di una fonte di energia, se non perfetta, certamente assai meno problematica dell'energia nucleare che conosciamo. Non si tratta di un perfezionamento della generazione attuale di reattori nucleari, ma di un salto tecnologico con molte sfide e per questo, nonostante le conoscenze di base su cui si fonda siano note da decenni, sta impiegando molto tempo a concretizzarsi. E a Smart City, in due puntate, stasera e domani sera, cercheremo di scattare una fotografia della situazione. Appuntamento alle 20.50 qui su Radio 24. Buona giornata. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il tempo stringe e il governo ha in atto una delicata partita diplomatica con l'Unione Europea per ottenere i margini di flessibilità di bilancio utili a comporre il quadro di finanza pubblica che dovrebbe portare a una manovra, come si diceva una volta, da 27 miliardi. Già lo scorso anno Palazzo Chigi e il Tesoro hanno ottenuto da Bruxelles un bonus dello 0,4% rispetto al PIL che resterà valido anche per il 2016. Ora l'Italia però punta a ottenere un altro 0,4% di margine, che si traduce circa in 7 miliardi, che dovrebbe essere frutto dell'applicazione della clausola che scomputa gli investimenti dal calcolo del deficit e del cosiddetto bonus per le riforme realizzate dal governo. Il programma presentato finora a Bruxelles fissa un rapporto deficit-PIL all'1,8%, ora l'esecutivo punta a spostarlo al 2,2%, percentuale che comunque è ben al di sotto del 3% previsto dai parametri europei, ma non facile da negoziare perché il debito italiano resta il secondo dell'Unione ed è ancora in crescita. C'è una buona notizia però dal versante del PIL, perché i documenti redatti al governo finora consideravano per il 2015 una crescita dello 0,7%, mentre sarà probabilmente più alta, tanto che l'esecutivo si appresta a cambiare l'obiettivo dell'anno nello 0,9%, un fatto che renderà quindi più semplice recuperare margini da destinare alla spesa, almeno 3 miliardi. Al di là della partita diplomatica, ciò che conta però è il capitolo della spending review, cioè dei tagli, da cui dovrebbero derivare almeno una decina di miliardi. Non è mai facile fare i tagli, anche stavolta sarà la sfida più difficile per il governo Renzi, anche perché finora di certo ci sono 3 miliardi miliardi di contributo dalla sanità, e dai tagli dovrebbero derivare anche le risorse per evitare le clausole di salvaguardia che farebbero aumentare l'IVA dal 1 gennaio 2016. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan. Siamo in diretta fino alle 9.30, come sapete questa è la prossima settimana ancora. Allora, parlavamo dei negozi, prima di cambiare tema, adesso affrontiamo un altro tema, ma Diego da Milano era rimasto indietro. Diego, buongiorno. Sì, buongiorno Milan. Niente, volevo portare la mia esperienza. Io sì. Per lavoro, come dicevo presto, vabbè, la mattina è un orario lavorativo più o meno verso le 8:30. La sera non finisco prima delle 6:30, 7. Non abitando neanche vicino al lavoro, io mi troverei praticamente impossibilitato a fare spesa durante la settimana se non ci fossero i centri commerciali. C'è il sabato, il sabato lei lavora? No, il sabato non lavoro, però implicherebbe il fatto di fare la spesa poi per tutta la settimana. Ma lei è per una questione che le è comodo avere la domenica anche il negozio aperto? Più che altro sì, adesso sentivo prima che ci si riferiva alla vita da centro, no? Da centro cittadino, sì, sì. Non abitando poi in centro città, avere un centro commerciale vicino implica il fatto che si riesce a fare anche due passi. Ma lei Diego, tra l'altro, sì. Ci spiega come tutto sia relativo. È chiaro che non c'è una verità assoluta dal punto di vista della commessa che deve lavorare o il commesso che deve lavorare, l'epifania è un problema. Dal punto di vista suo è una grande comodità avere la domenica tutta sì, aperta. Sì, oltre al fatto che penso, ma questo poi ovviamente va confermato anche dai diretti interessati, c'è necessità anche più di persone poi per far lavorare altre persone anche durante il weekend. Ovviamente è possibile solamente nei centri commerciali, che è il lato negativo della cosa, perché non nei negozietti non si riesce la a fare bottega, ma io... la bottega, esatto, chiaramente esatto, no, ma chiaro, no. Diego, io la ringrazio, ma ripeto, non esiste un punto di vista oggettivo, ogni punto di vista rispecchia quello che è le proprie esigenze, e quindi in questo senso possono avere ragione tutti. Però adesso voglio cambiare tema. E questo è un tema sul quale dico: genitori, aprite bene le orecchie, anche se forse le orecchie le avete ben aperte, ma il problema vero è che il problema siete voi. Lo dico chiaramente, il problema probabilmente siete voi o noi, sono anch'io genitore, quindi mi ci metto in mezzo. Parliamo dei nostri figli, delle nostre figlie, di bambine e bambini o di adolescenti, quindi un po' più cresciuti. E dell'uso di che cosa? Dei social network, tramite ormai qualsiasi modalità, dallo smartphone ai computer, ormai non è che si può fermare il dilagare della tecnologia. E però ci sono bambini di 9 anni, mi ha molto colpito leggere questo, di 9 anni, 9, che hanno un profilo Facebook. Lasciamo stare il fatto che per la legge bisognerebbe avere 13 anni per avere un profilo Facebook, ma la legge si aggira facilmente, basta mettere delle date di nascita false, oppure addirittura, ma molto colpito, quando ieri ho letto questa notizia in rassegna stampa, un'ascoltatrice mi ha scritto: io sono un insegnante, guardi che la vicenda è molto grave, perché sono i genitori stessi che aprono i profili ai loro figli, perché gli si dice, a 9 anni, 9 anni, 10 anni, perché si dice, se no sono esclusi, poverini, dalla classe, dagli altri. Allora, mi ha molto colpito, e ne vogliamo parlare di questo rapporto genitori, udite bene. Saluto la ricercatrice Giovanna Mascheroni, ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi alla Cattolica di Milano. Buongiorno, dottoressa Mascheroni. Buongiorno. Allora, ci dia qualche numero, perché avete presentato una ricerca. È vero che il 70% degli intervistati tra i 9 e i 12 anni hanno un profilo sui social network? Allora, hanno un profilo sui social media in generale, per cui social network, ma anche servizi di messaggistica come WhatsApp innanzitutto. Chiaro. Sì, sì. Quindi quando diciamo che il 70% dei ragazzi tra i 9 e i 12 anni sono sui social media, non intendiamo necessariamente ed esclusivamente Facebook. Beh, anzi, però voglio dire, i rischi, perché parliamoci chiaro, i rischi corrono anche su WhatsApp, per dire, per citarne uno. Sì, sì, infatti, anche perché i genitori pensano, i genitori e gli stessi ragazzi pensano che WhatsApp sia la piattaforma comunicativa più sicura, perché in effetti si comunica con le persone che sono nella propria lista di contatti, insomma, sì, di cui abbiamo il numero di telefono. In realtà poi col meccanismo dei gruppi è facile comunicare anche con persone che di non cui sono non... nella nostra rubrica telefonica. Esatto. A proposito di telefono, mi faccia dare il nostro di telefono se volete intervenire su questo tema che è molto delicato. 800 24 00 24. Allora, che cosa l'ha colpita di più? A me ha colpito di più in questa ricerca il fatto che bambini di 9, 10, 11 anni, aggirando la legge, siano connessi, parliamoci chiaro. A lei cosa ha colpito di più di dato? Guardi, lei fotografava benissimo tutta l'ambivalenza che questi strumenti rappresentano anche per i genitori, perché non dimentichiamoci appunto che quando un genitore decide di dare al proprio figlio un telefono cellulare e ormai uno smartphone, lo fa anche per sicurezza personale, per sentirsi, per avere la possibilità di essere sempre in contatto con i propri figli, no? È quello che noi chiamiamo anche un guinzaglio elettronico. È un modo per essere sempre connessi. Anche WhatsApp in realtà diventa uno strumento di comunicazione familiare, si fanno, sì, i gruppi della famiglia. Il problema è che poi dopo ovviamente uno strumento, una volta che viene messo in mano un bambino di 9 anni, 10 anni, 11 anni, viene utilizzato come, cioè, a mille usi, ecco. Esatto. E tra l'altro anche la maestra che le scriveva ieri ha perfettamente ragione. L'altra ambivalenza per i genitori è l'idea di poter garantire ai propri figli di essere parte del gruppo dei pari. Questo, no? Questo è un aspetto culturalmente che ha molta presa, cioè nelle persone che avete sentito, non so se avete affrontato questo aspetto, c'è il genitore che dice non posso escludere mio figlio. Guardi, mia figlia. Non in questa ricerca nello specifico, perché appunto era una ricerca quantitativa con i ragazzi, non con i genitori, però nelle mie ricerche passate, l'anno scorso, 2 anni fa, ho fatto delle interviste qualitative per un progetto europeo ed è molto forte questa cosa, perché appunto i genitori sono un po' sotto pressione, anche perché sanno che devono comunque fornire ai propri figli tutti gli strumenti tecnologici più avanzati, appunto da un lato per dare pienamente diritto di appartenenza al gruppo, sì, dei pari, dall'altro perché si rendono conto che sono strumenti che sono anche importanti per il futuro dei ragazzi. No, ma certamente non bisogna, come dire, sì, farli rimanere indietro dal punto di vista tecnologico. Qual è il media più utilizzato a cui sono più connessi? Facebook, immagino. Il device sono proprio gli smartphone e poi è WhatsApp. WhatsApp. Sì, assolutamente WhatsApp. Vediamo che Facebook è ancora preferito dai più grandicelli, dagli adolescenti tra i 15 e, sì, i 17 anni. Ma 9 anni WhatsApp, che poi 9 anni WhatsApp vuol dire che devono avere in mano un cellulare a 9 anni. Io questa cosa, ripeto, mia figlia, ovviamente ve lo chiedo, mia figlia ha 9 anni, il massimo che le concedo di fare è quando vuol mandare un messaggio in vacanza a una compagna di classe, insieme a me prendiamo il mio cellulare, scriviamo alla mamma, al papà di quel compagno di classe via WhatsApp a dire ciao, sono Angelica, come stai, punto, sì, cioè questo. Però l'idea di consegnare un cellulare a mia figlia di 9 anni, non so, mi viene l'angoscia, mi viene un groppo in gola, e non lo faccio, ovviamente non lo faccio. Però dottoressa Mascheroni, le voglio presentare un magistrato, è il procuratore di Novara Francesco Saluzzo, che è già stato in passato nostro ospite e che ringrazio e saluto. Buongiorno dottor. Buongiorno, buongiorno. Allora, per un caso di cronaca di una ragazza che si tolse la vita, che fu anche molto probabilmente, come possiamo dire, dottor Saluzzo, mi aiuti, molestata, spinta, spinta. Lei dice spinta a farlo, sì, perché sì, fu presa una molto spinta, in giro. Fu molto presa in giro, fu fatta una pesantissima ironia nei suoi confronti, furono create addirittura delle immagini artefatte per un video che, certo, lei aveva fatto e girò, certo, e girò sui vari telefonini dei compagni. Ecco, lei divenne famoso e su Facebook. E su Facebook lei divenne famoso proprio perché disse: a questo punto bisogna anche portare in causa Facebook, o meglio denunciamo Facebook perché non ha rimosso questo video. Sì, io mi ero posto il problema, per la verità, la ringrazio, sì, per essere tornato sull'argomento. Mi ero posto il problema di quest'area di assoluta impunità che ha lo provider con riferimento, e non solo nel caso di Facebook ma anche negli altri casi, che ha con riferimento al contenuto di quello che viene messo in rete e fatto circolare in rete, che è un problema evidentemente da risolvere, e da risolvere, come avevamo già detto l'altra volta, ma non è cambiato nulla al riguardo, anche a livello europeo, perché è un problema di regolamentazione di un diritto informatico che adesso tra l'altro la Corte di Giustizia dell'Unione Europea declina secondo che sia attivo o passivo, cioè il diritto a non vedere informazioni sul proprio conto messe in rete, o se io consento a metterle in rete a non vederle modificate e a toglierle quando io lo voglio. È la famosa sentenza del 2014 Google Spain che ha un po' costituito un precedente e una sorta di boa intorno alla quale si è girata rispetto alla precedente giurisprudenza. Chiama in causa la responsabilità dello provider, ma non abbiamo ancora strumenti normativi per obbligarle a farlo, per definire le aree. Ma quindi come è andata a finire? Cioè nel senso è andata a finire, detto in parole molto povere, è andata a finire che non abbiamo mai avuto risposta alle rogatorie. Abbiamo fatto 3 volte la rogatoria internazionale negli Stati Uniti per avere l'indicazione da Facebook del contenuto del profilo di quella ragazza, dando i pochi dati che noi avevamo, perché naturalmente i dati interni del profilo noi non li abbiamo, li cercavamo, e ci hanno risposto che senza dati più circostanziati, più dettagliati, loro non potevano rispondere. Praticamente chiedevano a noi i dati che avrebbero dovuto darci loro. E secondo lei, da procuratore, insomma, quel filmato e quella diffusione del filmato nei vari social è stata proprio la causa che ha spinto quella ragazza a togliersi la vita? Sicuramente ha contribuito, perché si è creato intorno a questa ragazza una situazione di grandissimo disagio, di vergogna, di incapacità di affrontare, perché poi tra l'altro la cosa è continuata persino dopo la morte. Hanno continuato, sì. E allora lì con il profilo del diritto alla rimozione, del diritto all'oblio, eccetera, poi queste cose... Siete riusciti a bloccare almeno questo? Sì, anche la sorella che era intervenuta, eccetera. Perché qui c'è tutto un problema stratificato. Adesso diceva la dottoressa, i genitori devono... Ma no, io devo dire la verità, non sono d'accordo sul fatto che i genitori debbano. I genitori, certo, vogliono assicurare ai figli di partecipare alla platea sociale che si realizza attraverso questi strumenti e compagnia, però lo fanno anche in violazione di una normativa regolamentare, cioè lo fanno per bambini, per ragazzini piccoli, ma soprattutto una volta che lo hanno fatto, e io posso anche capire che ci siano delle situazioni in cui i genitori sono meno capaci di resistere, meno capaci di opporre dei rifiuti, meno capaci di spiegare perché non si fa, quantomeno controllare. No, ma infatti la questione è questa, certo. La domanda che volevo porre alla dottoressa Mascheroni è, ovviamente, se un genitore non si rende conto dei possibili, non dico certi, ma possibili pericoli legati all'uso dei social media, è pazzo, cioè vuol dire che non sa come funzionano i social media. Però mi chiedo, nella ricerca che avete fatto, i bambini, certo hanno 9 anni, alcuni 10 anni, che percezione del pericolo possono avere, ma ce l'hanno questa percezione? Cioè si rendono conto che possono correre dei rischi? Allora, innanzitutto io volevo precisare che non dicevo che i genitori devono, dicevo che c'è una forte pressione sociale sui genitori, è una forte ambivalenza. In realtà i casi come quello che è stato raccontato, in effetti fortunatamente sono una minoranza e sono importanti, perché ci fanno capire che non si può neanche scaricare tutta la responsabilità sui genitori o sulla scuola. Serve un approccio multi-stakeholder e la regolamentazione dei contenuti è assolutamente fondamentale. Per cui noi sappiamo che fortunatamente non tutte le esperienze rischiose sulla rete si traducono in un danno, e fortunatamente non un danno così eclatante, però quello che il procuratore sottolineava è un aspetto importantissimo. Il maggiore rischio che i ragazzi corrono sui social media e in generale sulla rete è proprio l'esposizione a contenuti violenti, a hate speech, a contenuti razzisti e discriminatori verso certi gruppi sociali. No? Quindi l'hate speech è l'incitamento all'odio, perché ci sono persone che stanno sulla rete proprio per il gusto di istigare all'odio. Ecco. Sì, il 34% di tutti quelli che abbiamo intervistato, e in particolare il 44% di quelli dai 15 ai 17 anni, hanno detto che hanno visto contenuti che incitano all'odio sui social media. Sì. No, questo è un problema serio, che coinvolge tutti, appunto, perché è un problema di cultura, è un problema di educazione, ma è anche e soprattutto un problema di regolamentazione dei contenuti, che in questo momento non c'è. E che però ci ha spiegato il procuratore Saluzzo, e poi chi li può controllare a volte fa orecchie da mercante, o li deve controllare in nome della libertà o della imprecisione sui dati, a volte si fa orecchie da mercante. Fatemi sentire Paolo da Palermo, che ci ha chiamato su questo tema. Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora, io sono d'accordo che insomma la tecnologia non si può fermare, però pronto, mi senti? Sì, tanto? Benissimo, dica Paolo. Ecco, però intanto credo che si possa regolamentare. Ecco, abbiamo un esempio classico con la tecnologia. Prendiamo la bomba atomica. La bomba atomica non è che è aperta a tutti, è una tecnologia che è messa lì e ben controllata, almeno sembra che sia ben controllata, non tutti possono usarla. Ecco, io per esempio a mio figlio a 9 anni, a 10 anni, non lo porterei a Times Square e gli direi ok, ci vediamo fra 2 mesi. Lasciare un bambino con l'accesso al web è peggio di lasciarlo a Times Square da guardi, solo. Lei Paolo utilizza un'immagine molto efficace, ce la disse anche una volta Alessandro Giglioli, che è collega molto esperto di queste tematiche, a dire: devi insegnare a un bambino ad attraversare la strada. Se a 9 anni gli dici questa è la strada di New York o a Times Square, vai, è come mettergli in mano, metterlo di fronte a pericoli certi. Dottor Saluzzo, qui però si entra nella questione dell'educazione dei genitori, di quanto i genitori possono dedicare come tempo, come voglia a educazione dei figli. È un tema più che legale, è proprio di altro tipo. Sì, sono d'accordo sul fatto che l'educazione da parte dei genitori sia fondamentale. Anche un approccio culturale maggiore da parte della scuola sarebbe utilissimo, importante, magari sacrificando qualcos'altro, eccetera. Il problema però è che la rete ha delle zone non solo grigie, ma direi oscure, che sono però facilmente esplorabili, lo sappiamo tutti, no? I bivi che ci sono nella rete, e qui parlo soprattutto della navigazione in internet, ma anche la possibilità di rapporti di secondo, di terzo, di quarto livello, cioè eccetera, su Facebook e sugli altri strumenti è altrettanto in dubbia. Allora, noi siamo passati da affermazioni della nostra giurisprudenza nazionale sulla totale responsabilità dello provider, del gestore, perché c'è molta condiscendenza verso la rete. Nessuno si vuole prendere la responsabilità di apparire oscurantista, neanche i giudici. Cioè, diciamo, si potrebbe fare, ma non si vuole. Ma certo, ma adesso quella sentenza del 2014, la Google Spain, dice chiaramente al legislatore europeo che tutto questo va inquadrato nei diritti fondamentali della persona, quindi anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona, e dice chiaramente che qualcosa occorre fare. Io sono convintissimo che la materia vada regolamentata, ad esempio tutto il profilo dei moderatori dei gruppi, no? Anche i moderatori sono esenti da responsabilità nella giurisprudenza, neanche questo profilo è stato preso in considerazione. Ora, per carità, la figura del moderatore è residuale, perché questi dialogano direttamente, eccetera. Lei dice anche questo si potrebbe regolamentare. Certo. Allora, fermatevi qui, perché sennò sforo. Intanto vi ringrazio, la dottoressa Giovanna Mascheroni e Francesco Saluzzo, procuratore di Novara. Grazie per essere stati con noi. La materia è molto ampia, ma come sapete ci piace ritornare sulle cose, quindi torneremo anche su questo. Intanto torneremo domani alle 6.30 con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione, e il nostro Peter Bescapè in regia. Ciao!